sono le cose della vita che ci spaventano un po', pensando di avere tutto, forse è quello però che ci allontana dalla fede, che aiuta a credere che l'amore c'è ovunque agisce la preghiera, ti dà il tempo che serve a te. Uno che ascolti solamente quello che piace a te, senza ascoltare chi ti ama e vuole bene per te. Anche se Dio tu non lo vuoi, perché lo senti di accettare scuse in te. La verità è troppo dura per ammettere dentro di te. Una preghiera a Dio io imploro te, ascolta quel richiamo indegno di te. Non so pregare, ma so che senti la paura forte che ti dice prega per me. Paura dell'ignoto è questo il problema che noi affrontiamo col disprezzo, perché indifesi sul poi. Scappare dalla vita non si può, ma se hai fede la paura che ti ha separato dall'amore fugge, perché il bene è con te. Servirsi di uno schema al cuore finisce sempre così. Storia grande di ogni uomo che si arrende per chi vuole a tutti costi i sogni suoi, disperde la speranza, ma se vuoi lasciare che sia il male a perdere, prega Dio e vinci con Lui. Senti la paura forte che ti dice prego.